Bentornati sulla linea d'ombra. Continuiamo qui questa sera a parlare del nostro argomento. Io spero che voi lo troviate interessante. Come che sembrano più sfidosi, più curiosi da proporvi. Non so, voi ne avete altri. Avete di altri? Proponetemi. Io sono un attimino allontanato da quella che era la semplice sfera degli alieni, degli extraterrestri e di tutto quanto. Anche perché nella sfera del paranormale, che a me non piace definirlo totalmente paranormale perché comunque sia. È un parolone nella sfera di ciò che è diversamente razionale, diversamente spiegabile o nell'area dell'inspiegato, ci sono anche delle cose che giorno per giorno noi sperimentiamo, che viviamo sulla nostra pelle, che magari sono talmente insite nella nostra realtà quotidiana che noi stessi non ci rendiamo conto di questo. Ci sembra una cosa normale, mentre in realtà rientra in un ambito diverso, quale ad esempio le superstizioni. Nonostante siamo nel 2011, in cui la scienza ha spiegato la maggior parte delle cose, esiste tanta gente superstiziosa. E la superstizione rientra in una sfera del paranormale, comunque sia che noi non riusciamo a spiegarci. Però è talmente impregnata la nostra realtà di tutto questo che veramente non ce ne accorgiamo. Non ce ne accorgiamo di tutto ciò che ci circonda, perché quando si ha sotto gli occhi continuamente delle cose che, anche se non rientrano nel normale, noi le accettiamo, lo diventano. Quindi decido, cioè la mia scelta nel proporvi degli argomenti che non siano sostanzialmente rapimenti alieni, razze aliene, mutazioni transgeniche, extraterrestri e roba varia, è dovuta anche a questo. Ci sono delle sfere che mi piace parlare, di cui mi piace parlare appunto e di cui vorrei conoscere anche la vostra opinione. Comunque, avevo ritrovato questo articolo che appunto parlava di come attirare la fortuna e si chiama Un sorprendente metodo per attirare la fortuna. Non so, dobbiamo crederci, andiamo a leggerlo, lo scopriremo se è una legge matematica o una legge aria fritta, diceva un mio professore dell'università. Attirare la fortuna con una strategia semplice da applicare, facile da imparare e che funziona alla grande. Sarebbe bello, vero? E se ti dicessi che questo metodo esiste? Sembra un po' una pubblicità dei materassi. Vuoi comprartelo? Funziona contro il mal di schiena. Andiamo avanti. Iniziamo dal principio. Cosa sappiamo per certo sul nebuloso fenomeno chiamato fortuna? Una cosa la sappiamo. Ci sono persone che giorno dopo giorno non si aspettano nient'altro che attirare la fortuna. E la attirano veramente. Sappiamo che la fortuna appare come un evento che ha una certa ciclicità. Una persona può vivere un periodo di eccezionale fortuna in ogni campo della sua vita e all'improvviso, senza motivi apparenti, tutto crolla. Molti di noi conoscono persone che hanno vissuto eventi del genere. Personalmente, dice l'autore dell'articolo, noto la ciclicità della fortuna, soprattutto nello sport. Ricordo squadre di calcio costruite per vincere, composte da grandi campioni e non riuscire nel loro intento. Si stenta quasi a crederci. Giocatori che si infortunano a ripetizione, gol clamorosamente mancati e quant'altro. Nel campo degli affari, la teoria della ciclicità della fortuna è una variabile ben conosciuta e la si tiene in grande considerazione. Quindi già notiamo, io noto già il fatto che parlano di fortuna in qualità di variabile. E quando si parla di variabile si rientra in un ambito matematico, se le mie nozioni matematiche non mi ricordi, diciamo, le mie resumanze matematiche non mi abbandonano. E quindi è un fattore, mettono il fattore, cioè una cosa che dice, va bene, teorizziamo tutto questo, però teniamo questa variabile qui. È una variabile perché appunto, come dice il nome, può variare. E poi l'articolo stesso ci va a parlare di quella che è la ciclicità di questa teoria. Io prima di leggere nello specifico preferirei mandare la pausa musicale perché altrimenti significherebbe o sforare con i tempi oppure doverla interrompere per poi doverla riprendere. Quindi mi scuso per questo inconveniente, forse a me piace molto, molto riflettere, quindi teorizzare su quello che leggo insieme a voi, quindi spezzo un attimo i tempi. Io vi invito ancora una volta a rimanere con noi perché andrò a leggervi questa teoria e vorrei saperne soprattutto il vostro parere, vorrei sapere cosa ne pensate. Restate con noi, c'è una pausa musicale, scelta appositamente per noi dal clan.